Parabole di Al-Mutasim. Un giorno Al-Mutasim passeggiava nel deserto sotto il sole cocente del meriggio. Una persona caritatevole gli si avvicinò additandogli l'ombra di un riparo. Era forse il tetto di una roccia o un vecchio albero rinsecchito. «Perché non vuoi che il mio pensiero raggiunga il sole?» 2. Al-Mutasim era solito mangiare grandi quantità di cibo. A un commensale che lo stava osservando con palese disgusto disse: «Hai ragione a guardarmi in quel modo, a me disgusta ogni briciola che metti in bocca». Al-Mutasim era un formidabile digiunatore. Perché formidabile? Perché, si pensava, nessuno sa quanto durerà il suo digiuno. Nessuno conosceva Al-Mutasim. Era presente ovunque, la sua casa era aperta a tutti, la sua mensa sfamava chiunque vi si sedesse. La sua parola raggiungeva i più remoti angoli della terra, di lui parlavano le televisioni del mondo. Nessuno conosceva Al-Mutasim. E Al-Mutasim conosceva qualcuno? Un giorno fu visto parlare a una donna, ma era lui stesso quella donna. Dove abita Al-Mutasim? Alla porta accanto. Accanto a quale? A tutte. Ma allora come mai nessuno lo conosce? Perché le porte accanto sono tutte murate. Che lingua parla Al-Mutasim? Parla gesti. Quali gesti? Sempre lo stesso. E che cosa dice? Ogni cosa. Un giorno Al-Mutasim incontrò il suo più caro amico. Chi sei? Il tuo più caro amico. Sì, ma chi sei? Non mi riconosci? Sono il tuo più caro amico. E Al-Mutasim lo uccise. Pioveva dirotto. Al-Mutasim passeggiava sopra pensiero. Ma così ti bagni tutto? Gli gridò un amico ben incappucciato. Ora sì. Al-Mutasim camminava lento e mesto, come dietro a un funerale. Dietro di lui, il carro, trainato da 4 cavalli con finimenti d'oro. Sul carro il feretro, lussuosamente intagliato. Dentro il feretro tu, con le fattezze di Al-Mutasim.